24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 16 minuti e 58 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 24 marzo. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a chi ci ascolta. E tra gli ascoltatori voglio salutare in particolare Stefano, padre di quattro figli, marito di un'infermiera che lavora a Seriate, il quale ci consegna su WhatsApp il seguente racconto. Lo scrivo qui perché potrebbe capitare a tutti nei prossimi giorni. Io stanotte ho lavorato 7 ore per la reperibilità, parla la moglie naturalmente, dopo un turno di mattina dir poco infernale di 8 ore, e adesso mi preparo a fare il pomeriggio. Scusate la polemica, ma lo trovo disumano. Pazienti in ogni angolo del pronto soccorso, la maggior parte ormai positivi, non riescono a curare tutti, i reparti non fanno più interventi, solo ricoveri dei più gravi infettati con polmonite acuta, anche gente priva di patologie. Non è allarmismo, ma realtà non descritta. C'è un grande tema, lo abbiamo sottoposto agli ascoltatori l'altro giorno e sul quale bisognerà tornare, su quanto il nostro sistema sanitario riesca a reggere l'impatto di un'estensione appunto di questo virus, cara Maria. Forse bisognerà tenere conto appunto delle priorità, no? Distinguere tra importante e urgente. Intanto vediamo che anche nei paesi vicini, sapete che in Germania per molte settimane sono andati avanti dicendo oggi, quest'anno c'è un picco di influenza stagionale, adesso cominciano anche loro a monitorare i casi, che sono saliti a 199, e il ministro della salute tedesco riferisce che i casi accertati nuovi sono in differenti land, nel Mecklenburgo, Pomerania e nel Saarland. I colpiti in Germania, insomma, stanno crescendo, hanno già fatto 11.000 test e cancellato anche loro quasi tutti gli eventi fieristici, la fiera del libro, quella del turismo. Tra l'altro sta succedendo una cosa significativa anche sotto il profilo politico, perché ne parla oggi il Financial Times, ma lo stanno vedendo realmente. In pratica la Merkel è sparita e tutte le posizioni le stanno prendendo il suo combattivo e scalpitante ministro Jens Spahn e l'altro Seehofer. Quindi non è escluso che da qui a qualche mese succeda quello che non immaginavamo potesse succedere, cioè che la Merkel lasci. Sì. L'ultima cosa l'uscita che voglio dire di scena. Sì. È importante quello che è successo ieri notte, una cosa tenuta segreta ma significativa, perché i tre consiglieri diplomatici della Merkel, di Macron e di Conte, vale a dire il consigliere diplomatico Pietro Benassi, il consigliere diplomatico Emmanuel Bonn per Macron e il consigliere Jan Ecker per la Merkel, sono andati in Libia e hanno fatto quindi per la prima volta una cosa di comune accordo europea e significativa. Sì. Questo mi sembra molto importante. Vedremo che cosa ne uscirà. Intanto, per un punto nave, oggi abbiamo con noi Massimo Galli, docente della Statale di Milano, primario dell'Ospedale Sacco di Milano. Professor Galli, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Prego Maria, inizia tu, vai. Buongiorno. Allora, sì, avevo cominciato guardando anche fuori dai nostri confini, perché quello che succede in Europa ovviamente ci riguarda da vicino. Dicevamo delle misure che sono state suggerite, no, dal comitato scientifico. Alcune sono di buon senso, non darsi la mano, per un po' non ci daremo la mano, pazienza, stare a distanza di sicurezza e va bene. Di tutte le misure, professor Galli, qual è quella che lei considera di più difficile attuazione? Tutte le misure suggerite, per ora sono suggerite dal comitato scientifico. Ma in realtà non è che qualcuna di queste misure sia particolarmente più difficile assumere rispetto alle altre. Il punto è quanto tutto questo sia in linea di prospettiva sufficiente. Mi auguro con tutto il cuore che lo sia. La mia preoccupazione maggiore in questi giorni, per quello che non riguarda la gestione clinica delle persone, perché anche lì c'è molto da dover dire, è il fatto che non c'è capienza, non c'è stata capienza nei nostri ospedali per le persone che stanno bene pur avendo una situazione di positività o perlomeno che hanno forme molto lievi, e ovviamente per avere posti in ospedale noi dobbiamo anche dimettere le persone che pur rimanendo positive non hanno necessità di un'assistenza ospedaliera importante. E possono restare in isolamento a casa? Non... Ecco, tutte queste persone sono avviate teoricamente all'isolamento a casa. Il mio forte timore è che questo isolamento domiciliare non possa essere sufficientemente di garanzia per l'ulteriore contenimento del problema e che il problema diventi ciclico. Dovremmo avere oggi la disponibilità di spazi all'ospedale militare a Milano e questo ovviamente aiuterà molto in questa direzione. Non so se basterà e soprattutto non credo che basti per l'intera regione. So che ci sono altre iniziative in ballo, però credo che si debba rimanere preparati per quello che può ancora succedere e che sia necessario pensare a delle soluzioni di garanzia. Ricordo che tutto quello che ci sta succedendo deriva probabilmente da un'unica introduzione dell'infezione qualche tempo fa, che ovviamente è questo. Vale per noi e vale anche per le altre nazioni che si stanno cominciando a confrontare col problema. Un'unica infezione misconosciuta che è riuscita a serpeggiare sotto traccia fino a darci la situazione che abbiamo adesso, con questa quantità di casi di malattie anche di una certa portata che arrivano tutti insieme come nodi al pettine, insomma, non c'è proprio... con un andamento professore, mi scusi, che non sono, o almeno non, in gran parte, non sono nuovi infetti, nuovi positivi, ma sono persone che stiamo scoprendo adesso che sono certo, positive al coronavirus. Assolutamente non lo sono, ma sono tutto quello che è accaduto nell'arco di 3, 4, 5 settimane a partire da oggi. Questa è un'altra delle cose che sarebbe importante riuscire ad accertare. Certamente a partire probabilmente da un solo caso e probabilmente da quella che è la zona rossa dell'Odigiano, noi abbiamo avuto lo sviluppo di un'epidemia di questa portata che ci ha portato ad avere 2500 casi accertati fino a questo momento. Tutti verosimilmente frutto di un contagio che non è il contagio di ieri o di ieri l'altro, ma è un contagio di diversi giorni fa. Del resto poi l'elemento fondamentale sarà capire se le misure poste in atto ci consentiranno di bloccare ulteriori infezioni proprio invece di questi giorni. Questo è il punto fondamentale. Ribadisco però che perdere la possibilità di contenere l'infezione garantendo la quarantena delle persone colpite, anche quelli che stanno complessivamente bene, ci mette nelle condizioni, ahimè, di rischiare che si ricominci, e questo è un elemento che deve essere comunque tenuto molto ben presente. Noi oggi come medici impegnati in prima linea siamo fin troppo ovviamente impegnati ad affrontare la situazione degli ospedali, che è una situazione importante, critica, soprattutto in Lombardia. Professor Galli, ieri e anche ieri l'altro da Israele sono cominciate ad arrivare delle informazioni sulla possibilità di identificare un vaccino. Che cosa se ne sa e eventualmente quanto tempo occorrerà prima che possa essere utilizzato? Guardi, clamori sul vaccino ne sento molti. Ne leggo parecchi. Questo è un virus su cui probabilmente potrà essere più facile avere un vaccino di quanto vale per altri virus a RNA. Io ho in mente le storie infinite da questo punto di vista sull'HIV e sul virus dell'epatite C che ancora non hanno vaccino, anche se entrambi questi virus sono noti dagli anni 80. Francamente mi auguro che tutto questo possa intervenire presto, però attenzione, a pensare male qualche volta si azzecca. Credo che molte di queste voci, ho il vaccino, avrò il vaccino, avrò il vaccino tra breve, sono anche un modo per cercare di avere finanziamenti da parte di vari gruppi di ricercatori che sono più o meno avanti su questa cosa. La dura legge del gol, cioè la realtà dei fatti, dice che probabilmente ci vorranno comunque mesi per avere il vaccino e che comunque questa malattia oggi la si ferma con gli interventi di prevenzione e restrizione e non la riusciremo a fermare con il vaccino, almeno non l'avremo abbastanza presto per poterlo utilizzare in tal senso. Se così fosse, ahi noi, vorrebbe dire che ce la dovremmo tenere in casa per un bel po' per poi finalmente farla fuori col vaccino. E anche col caldo, no? Sì. Con l'estate. Sul caldo, francamente, non mi piacerebbe dirlo, ma francamente non ci sono elementi per far pensare che possa essere eliminata dal caldo. Certo, al caldo le persone stanno meno al chiuso e hanno meno occasione di avere contatti, però in questo momento credo che tutti quanti sanno bene che andare in luoghi affollati non è una grande idea. Quindi non è questo il discorso, tenga conto che questo è un virus nei confronti dei quali nessuno di noi ha un'immunità. Ce la dobbiamo costruire con una risposta primaria al virus quando arriva e quindi da questo punto di vista il discorso caldo-freddo conta abbastanza, ahimè, poco. Professore, si parla a ieri di 79 morti, in gran parte da quello che abbiamo appreso sono persone che avevano patologie preesistenti. Ci può dare un'idea su questo fronte? Si è detto in queste ore non si muore per il coronavirus ma con il coronavirus. Che cos'è una concausa? Come funziona? E cosa sappiamo invece di persone come, penso al professore del quale tutti hanno letto sui giornali oggi, un uomo che ha passato una vita a curare l'Alzheimer, 61 anni, apparentemente in buona salute, che in 3 giorni se n'è andato. E quindi, sa, come può immaginare, sale un po' di preoccupazione tra le persone. Professore, prego. Certamente immagino che la preoccupazione possa essere alta. Io di anni ne ho quasi 69, quindi puoi immaginare che francamente non è che sono, anche se veramente quelli che fanno il mio mestiere sono un po' come quelli che possono affrontare la bestia feroce sapendo che esiste con tutti gli strumenti per tenerla a bada rispetto a quanto invece capita a chi gira normalmente per strada e si incontra del tutto casualmente con il leone scappato dallo zoo. Questo è un discorso che ovviamente da questo punto di vista ci mette in una condizione assolutamente migliore, anche se un punto fondamentale nostro deve essere la protezione e la garanzia di tutti gli operatori, senza i quali poi non potremmo andare avanti. Però per quanto riguarda la situazione della risposta individuale, la risposta individuale è diversa da persona a persona. Questo è un virus che soprattutto non è una cosa per vecchi, gli anziani e i vecchi sono sicuramente a quanto pare molto più facilmente malamente colpiti da questo virus, mentre però è possibile che anche persone più giovani o apparentemente molto giovani per una serie di fattori individuali possano avere un decorso negativo. In molti casi questo virus, scusate il cinismo del termine, ma tanto per essere chiari, è stato il colpo di grazia, tutt'altro che grazioso, a persone che avevano già una condizione clinica molto impegnata. Questo, quando si è parlato dei morti con coronavirus e non i morti da coronavirus, beh, la questione è un pochino di lana caprina, ma dice di fatto che diverse delle persone che abbiamo visto purtroppo andare all'altro mondo avevano comunque una limitatissima aspettativa di vita per altre gravi condizioni. Non consola, non ci deve dare neanche, come dire, no? Un atteggiamento di nonchalance rispetto al problema in nessun modo, però è un dato di fatto. Voglio aggiungere un numerino su cui ho ragionato stamattina appena alzato. Come al solito vado a vedere il tabellone, faccio 2 conti. Se prendi l'epidemia dell'Hubei, quella più matura, quella più grande, quella iniziale, ti accorgi che l'attuale tasso di letalità, cioè il numero di morti sul numero di casi registrati in Hubei, è attorno al 4.4%. Se prendiamo i nostri 79 poveri defunti sul totale dei nostri 2.502 casi, andiamo ad avere un 3.1%, quindi siamo in linea, devo dire, da questo punto di vista. Certo, se non avessimo fatto, come è doveroso fare, la valutazione della condizione di positività anche dei contatti delle persone, cioè delle persone che sono state a contatto con le persone malate, chiaramente il nostro cosiddetto denominatore, cioè il numero di casi osservati, sarebbe stato più basso e sarebbe schizzato in alto per ovvi motivi il tasso di letalità, e allora non ci saremmo più capiti. In realtà un conto è la letalità dell'intera popolazione colpita, cioè di tutti i casi, e un conto è la letalità di quelli che finiscono in ospedale con una forma già grave, e lì chiaramente la letalità in Cina va in doppia cifra, e va in doppia cifra in termini percentuali, con ogni verosimiglianza, anche qui da noi. Professor Galli, ci dia, se può, ancora 5 minuti del suo tempo. Abbiamo una breve pausa e poi abbiamo un altro paio di domande. Mattino. Eccoci di nuovo, sempre col professor Massimo Galli, docente della Statale di Milano, primario all'ospedale Sacco di Milano. Maria, prego. Eccoci. Allora, lei diceva prima dell'ospedale militare che potrebbe entrare in azione a brevissimo. Si era sentito anche di un paio di altri ospedali militari che potrebbero, sono già entrati in funzione, non lo so, in Lombardia. Com'è la situazione tra disponibilità di letti negli ospedali militari, disponibilità delle strutture private? Sappiamo che Milano ne possiede di eccellenti, penso all'Humanitas, penso al San Raffaele, ma non solo. E come le risulta che si organizzerà questo doppio lavoro, ospedali militari, intervento delle strutture private? Chi farà la regia? No, allora, la regia compete alla regione, e io ormai sono sempre più una persona che vede il suo albero, il suo pezzo di bosco, e non la totalità delle cose. Non sono mai stato parte di questa cabina di regia e lascio a loro fare il loro lavoro. Per quanto mi riguarda, posso dire che sono a contatto quasi ogni giorno con il mio vecchio amico e collega professor Lazzarin della San Raffaele, e so che anche loro sono pieni di pazienti, si stanno dando un grande affare, sono entrati in gioco in maniera piena e completa. So meno dell'Humanitas, ma immagino che non sia differente anche lì, anche se loro non hanno letti di malattie infettive e non avevano un'organizzazione specifica per poter affrontare questo tipo di problematica, quindi non ho idea, non vorrei dire cose inesatte. È un dato di fatto che non c'è nessuna parte, ma proprio nessuna parte, di quanto la Lombardia possa avere e mettere in campo, che in una situazione di questo genere si possa permettere o si sia peritata di non scendere in campo, perché abbiamo tutti mobilitati, insomma, sì, tutte le risorse possibili. Credo che sia, ahimè, un elemento indiscutibile questo. Professor Galli, posto che ovviamente deciderà la regione, deciderà il governo, ma le sembra credibile una ripartenza delle attività, le scuole, le attività sportive e via dicendo, per la settimana prossima? Sicura, certo che no, per quanto la possa pensare, per quello che sto vedendo. Io penso che ce la si possa sperare, mi auguro con tutto il cuore di sbagliarmi, ma credo purtroppo che l'amico in questione ce l'avremo da gestire per un periodo non così breve da poterci permettere di far finta di niente a breve scadenza. Mi rendo conto che quelli dell'ospedale, c'è una vecchia canzoncina milanese, no? quelli che dicono che il vino fa male sono tutti quelli dell'ospedale, sono quelli che portano le cattive notizie. Però voglio dire, credo francamente che sia fantascienza poter pensare che una situazione con queste caratteristiche si normalizzi al punto di poter tornare, guardi, insomma, si sta addirittura parlando di un'altra zona rossa da stabilire nel Bergamasco. Ci sono casi in aumento più o meno in giro per l'Italia e per il mondo, ma di che cosa andiamo parlando? Vale, insomma, non voglio insistere oltre, mi pare che il messaggio sia già troppo chiaro e anche troppo gravoso anche per me da dare, ma non credo che si possa a breve scadenza ritornare a una normalità. La ringrazio, grazie a Massimo Galli, grazie, professore. Docente della Statale di Milano, primario all'ospedale Sacco di Milano, per le sue informazioni e le sue valutazioni preziose. Oh Maria, senti, ci vogliamo prendere un attimo di leggerezza, ce lo prendiamo? Sì, perché oggi è un anniversario, è un anniversario particolare, così ci distendiamo e un tanti attimo. Bei ricordi, chissà. Era un bell'uomo e veniva dal mare. Che poi questa roba la voleva fare Maria, perché a me Lucio Dalla, io non riesco a appassionarmi. Io ho dei ricordi bellissimi con Lucio Dalla. Ma oggi cos'è che ricorre? 4 marzo 1943 era la canzone che lo rese famoso di colpo, e oggi è il 4 marzo. Ma poi 77 anni dalla nascita, appunto, sì. 4 marzo 1943 e 8 dalla morte del cantautore. Vi devo raccontare un nanetto. Un nanetto, ve lo ricordate? Questo, guarda che non se lo ricordano in molti. Sì, era una vecchia cosa di era la trasmissione di Renzo Arbore. Indietro tutta, e c'era Nino Frassica, che all'epoca faceva solamente il comico, che entrava e diceva: adesso vi racconto un nanetto. Vai. Dalla è morto 8 anni fa, diciamo 9 anni fa, 10 anni fa, io non lo conoscevo, gli feci un'intervista in TV. Sì. E siccome a me mi hanno sempre fatto un po', mi hanno sempre un po' scocciato, no? I politici, che quando muore un grande cantautore dicono: è stata la colonna sonora della nostra generazione. Allora, l'ho sempre trovato molto ipocrita e molto retorico. Quindi gli chiesi: caro Lucio Dalla, ma appunto, se ci fosse la tragedia della sua scomparsa, lei li vorrebbe, i politici che fanno queste dichiarazioni: è stata la colonna sonora della nostra vita? E lui disse: per carità, che nessuno si faccia vedere al mio funerale. Oh. E ridemmo. Niente potevamo immaginare che di lì a un anno, purtroppo, sarebbe scomparso. Sì. Oh, mi dicono gli ascoltatori che era Quelli della Notte, non era Indietro Tutta, chiedo scusa. Era insomma, Quelli della era Notte, quella con l'anetto. Non Indietro Tutta, era quella però quella bella, dell'anetto. Simone, allora, bella questa canzone, 4 sì, marzo assolutamente. 1943. Allora, preannunciamo, andiamo al prossimo argomento. Il prossimo punto è sicuramente quello che è successo questa notte, che è una svolta nelle primarie americane. Non, è una questione che non riguarda solamente gli appassionati di politica americana, perché riguarda la corsa per la presidenza degli Stati Uniti, riguarda una grande divisione che c'è anche in Italia tra la sinistra moderata e la sinistra invece un po' più tosta, e parliamo di quello che è stato il Super Tuesday, ossia questo appuntamento nel quale si assegnano circa il 30% dei delegati per chi andrà a correre contro Donald Trump tra i democratici. Ebbene, vittoria ci pare schiacciante di Biden, che ottiene 9 stati su 13. Perché si sono messi tutti insieme contro Bernie Sanders. Sì, più o meno tutti, sì. Tranne Michael, però Warren non ha mollato. Ma si appresterà a mollare, secondo me. A breve, però chissà se mollerà per Biden. Non credo. Secondo me, se molla, porta i suoi delegati e i suoi elettori con Sanders, sarà lì anche interessante. Sì. Però parliamo del risultato di ieri. Del risultato di ieri. Oh, facciamo una cosa, sentiamo anche qualche voce, Carmelo Lauricella. Vabbè, Biden magari lo risentiamo tra un attimo, l'abbiamo sentito prima. Sentiamo un passaggio di Sanders. But tonight I tell you with absolute confidence we are going to win the Democratic nomination. Però si fa più dura, perché anche il Texas va a Biden. Buongiorno Federico Argentieri, docente di scienze politiche alla John Cabot University di Roma. Argentieri, benvenuto, eccoci. Buongiorno a voi. Maria, buongiorno, prego. Professore. Allora, lei ha un osservatorio speciale, cioè studenti americani che vengono a studiare a Roma per un tempo più o meno lungo. Queste elezioni presidenziali sono le prime in cui la cosiddetta generazione Z dovrebbe essere numerosa, andare a votare in massa, e i tempi, come dire, restringono, no? Progressivamente invece il numero dei baby boomers. Fatto questa premessa, c'è da notare due cose. La prima, tutti i candidati, sia democratici che l'unico repubblicano Donald Trump, hanno più di 70 anni e si avviano a sfiorare gli 80. Non è un po' bizzarro? Cioè, sono le elezioni con il maggior numero di giovani, no? che vanno a votare per la prima volta per il loro presidente, e i candidati sono tutti ultra settantenni. Questo è un paradosso assoluto, infatti. Diciamo non tutti, perché c'è Tulsi Gabbard che ha 38 anni, potrebbe essere la nipote per esempio di Sanders o di Joe Biden o anche dello stesso Bloomberg, però Tulsi Gabbard, la deputata hawaiana, è la quinta dei candidati ancora in lizza e non ha nessuna possibilità di vincere la nomination democratica, naturalmente. Però non dimenticherei il fatto che c'è Warren, che è un po' più giovane, ha 70 anni, ma resta il fatto che effettivamente i primi tre che si sono classificati nel Super Tuesday, ossia Biden, Sanders e Bloomberg, insieme fanno un numero di anni impressionante, credo 230, una cosa del genere, insomma. Se aggiungiamo la Warren arriviamo a 300 anni, effettivamente si tratta di ottuagenari, e questo è un paradosso, secondo me, che significa intanto la forza di una generazione nata durante o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non dimentichiamo anche nella musica i famosi Rolling Stones, eccetera, che sono coetanei, oppure due dei Beatles, che una sono generazione coetanei. Che non molla, no, non molla per niente, e si dimostra estremamente coriacea. Non so esattamente quali ne siano i motivi, però insomma spero di essere, io che sono nato 10 anni dopo, spero di di durare altrettanto. Esatto, esattamente. E i giovani però, ecco, non sono andati a votare in massa come si pensava, perché anche in California, dove lo spoglio è più lento, perché naturalmente in California ci sono 9 ore di differenza, dunque lo spoglio è cominciato più tardi che in Texas, per esempio, o nella costa orientale, non si registra un boom di votanti giovani, cioè il numero dei votanti giovani è rimasto più o meno lo stesso almeno finora del 2018. Quindi Argentieri, mi scusi, la fermo su questo. Quindi quell'onda che doveva votare per Sanders non si è vista, perché è là che si pensava che dovesse pescare. No, io credo che uno stato molto importante come il Massachusetts, per la storia che ha negli Stati Uniti e per il fatto che, insomma, che politicamente è uno stato importantissimo, è andato a Biden alla grande, ossia Sanders e Warren, che è del Massachusetts, la Warren, e Sanders, che è, diciamo, il campione degli stati blu, degli stati oceanici, diciamo così, sono stati spazzati via dal comeback di Biden in Massachusetts, e questo secondo me è molto indicativo. Certo, i ragazzi dicono, gli studenti americani, leggevo appunto su qualche quotidiano degli Stati Uniti, dicono ma è complicato doversi registrare, devo comprare una busta, devo metterci un francobollo, c'è un sacco di sforzo da fare per poter partecipare alle primarie. Ora, la generazione che è nata con tutti i mezzi tecnologici del mondo si arrende, almeno stando a queste confidenze raccolte da una giornalista del Financial Times, si arrende al fatto di dover comprare una busta, un francobollo. Francamente sono un po' pigri sti giovani elettori americani. Ma i suoi studenti, professore, che cosa avrebbero votato se avessero partecipato alle primarie l'altra notte? Beh, questa è una domanda importante. Io naturalmente sono prudente, perché non è appropriato chiedere ai studenti per chi votate, perché poi si può entrare diciamo così in questioni complicate, sì, anche di privacy, eccetera eccetera. Però dall'aria che tira, che io posso diciamo così citare, credo che Sanders sia sicuramente popolare. Biden non sembra essere popolarissimo e c'è anche qualche supporter di Trump, forse più di quanto non si pensi, perché uno a naso potrebbe pensare Trump non esiste tra i giovanissimi, e invece qualche supporter di Trump c'è. Naturalmente il punto debole di questi supporter di Trump è il fatto del clima e adesso anche il fatto del coronavirus. A causa del coronavirus alcuni dei nostri studenti stanno tornando a casa temporaneamente. Ecco, questo è un punto interessante. Lo sai, glielo volevo chiedere, Argentieri, visto che appunto avete studenti americani, capire un attimo come si stanno comportando. Sono in fuga, com'è? No. La parola fuga non è adatta. Diciamo che noi abbiamo una quota di studenti di 70 paesi che vogliono prendere il titolo di studio da noi e dunque si iscrivono per tutto il quadriennio o il triennio se sono italiani, perché gli italiani hanno un anno di meno da fare perché hanno un anno di più di liceo. E una quota di studenti che cosiddetti study abroad, cioè che vengono solo per un semestre. Una parte degli studenti che vengono per un semestre sta tornando, ma solo negli una parte Stati Uniti. Sta tornando a casa perché la loro scuola dice tornate qui. Io certo, non so se sia una buona idea, perché mi pare che negli Stati Uniti il coronavirus sta avanzando e oltretutto ci sono segnali molto contraddittori, cioè il tampone costa $3,000, sì, e l'amministrazione Trump da un lato dice che è una truffa, come ha detto Trump l'altro giorno, è la terza truffa ai miei danni dopo quella dell'impeachment, sì, e quella del rapporto Mueller. Intanto però a Seattle ci sono 9 morti, insomma, quindi questo è poi, no? Forse siamo soltanto all'inizio adesso, naturalmente spero che il virus venga debellato in tutto il mondo al più presto, però io sarei un tantino più prudente. Comunque una parte dei nostri studenti sta tornando e questo naturalmente comporta da parte loro rendersi conto di come funziona la sanità da loro, con la quale magari finora non hanno avuto a che fare perché sono giovani e stani, e anche prendere delle decisioni opportune in senso politico. Sì. Però, un nostro ascoltatore, professore, ci chiede, potete chiedere al professor Argentieri quali sono gli studenti americani che vengono oggi nel 2020 a studiare in Italia? Tantissimi, l'identikit è molto... È molto vario, ci sono studenti che hanno lontane origini italiane o più o meno lontane, che vogliono diciamo così conoscere meglio il paese ancestrale, e ci sono studenti che non hanno nulla a che fare con l'Italia, sono semplicemente curiosi. L'Italia è un posto popolarissimo, ci sono più di 100 programmi americani in Italia, da Harvard alla New York University e a tanti altri, che in questo momento sono naturalmente un po' in crisi, anche se tutti ci stiamo attrezzando per il cosiddetto distance learning, cioè noi continueremo, sì, il semestre con i media e continueremo a distanza, e il semestre sarà completato a distanza con quegli studenti che non vorranno ritornare entro mese di maggio. Ecco. Allora, sentiamo Carmelo Lauricella anche un passaggio di Biden, già che ci siamo, va. And we're told well when he got to Super Tuesday be over. Well, it may be over for the other guy. Yeah! Tell that to the folks in Virginia. Ed eccolo qua, che festeggia Argentieri. Qua qualche ascoltatore ci dice, guardate che alla fine Biden si ritira e lascia a Bloomberg, perché è l'unico in realtà che ha qualche possibilità anche economica di farcela. Boh, mi sembra un po' strano. Sì, decisamente. No, Bloomberg è stato veramente un flop. Sì, nel senso, vero, che è arrivato terzo, ma se contiamo quanti dollari ha speso per arrivare al 15 o 16%, cioè appena sopra il quorum necessario per partecipare alla convenzione, beh, insomma, è piuttosto salato il conto. Però Bloomberg ha detto, se nel caso non ce la dovessi fare, metterei comunque a disposizione le mie risorse per chi ce la può fare. Per cui io non escluderei affatto che Bloomberg poi alla fine appoggi Biden. L'unico c'è tutto rischio... c'è tutto un pezzo di America, professore, che se la passa molto male. Appena uscito un libro che si chiama Le morti per la disperazione e dà delle cifre veramente impressionanti sulla quantità di morti per oppiacei o per suicidi in stati che un tempo erano gli stati fiori all'occhiello dell'industria americana. Chissà, appunto, queste persone che lottano per la sopravvivenza, chi voteranno? La volta scorsa votarono Trump perché Trump aveva assicurato loro una luce in fondo al tunnel. Chissà se confermeranno questa scelta. Questo è un po' presto per dirlo. Sì. È un po' presto per dirlo perché se i risultati economici sono apparentemente eccellenti, con un tasso di disoccupazione molto basso e così via, io credo che non sia tutto oro quello che riluce. E poi non significa, bisogna ricordarsi del 2000. Nel 2000 l'economia americana era veramente nel periodo più fiorente della sua storia. Sì. In assoluto, e Gore ha perso malamente. Allora dobbiamo salutare, grazie a Federico Argentieri, docente di scienze politiche alla John Cabot University di Roma. Maria, ci risentiamo domani alle 8:20 naturalmente. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza e redazione, Margherita Ine, Francesco Ceraffo, i nostri autori. Scriveteci a 24mattino@radio24.it. A domani alle 6:30, ciao.